una persona che comincia a lavorare a 20 anni, cosa piuttosto rara adesso, ma comunque ammettiamo che comincia a lavorare a 20 anni, ha passato i suoi primi 20 anni largamente, non esclusivamente, ma largamente a carico della collettività, che ha contribuito in misura sensibile a pagare le spese dell'istruzione, e ricordiamo che l'istruzione è gratuita nella scuola dell'obbligo per chi ne fruisce, ma non è gratuita perché evidentemente si pagano gli insegnanti, si costruiscono gli edifici e quant'altro. Allora, dicevo che se va a lavorare a 20 anni, ha fruito per i primi 20 anni dei soldi del contribuente, poi dei soldi del contribuente, istruzione, per l'istruzione e la salute. Poi se va in pensione a 60 anni, dicevamo che si può aspettare di vivere ulteriori 26 anni, quindi e anche in questi 26 anni sta largamente a carico del contribuente, sia per la salute sia per le pensioni. Allora, 20 anni prima di lavorare. Quindi sono 46 anni a spese della e 40 anni come contribuente per la parte del lavoro, questo è il bilancio.